Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi 2 febbraio è un giorno per noi molto importante, perché il nostro programma oggi compie un anno. Abbiamo fatto 227 puntate, messe in onda anche di più perché poi abbiamo fatto delle repliche, ma 227 storie di vite straordinarie. Abbiamo parlato di musica, di sport, di cinema, di attualità, un viaggio che abbiamo fatto con voi con un crescente successo di ascolti e di critica, del quale vi ringraziamo. Siccome io sono un po' scaramantico, ricordo bene che un anno fa abbiamo iniziato raccontando una storia sul ciclismo. Il nostro debutto è stato fatto con Alfonsina Strada, che era la prima e unica donna che aveva partecipato al Giro d'Italia. E allora oggi, a un anno di distanza, raccogliamo l'invito di un ascoltatore che si chiama Riccardo, che ci ha chiamato da Senigallia. Riccardo ci ha chiesto di parlare di un altro ciclista particolare, una di quelle storie che a noi piacciono molto. È un ciclista che è passato alla storia non per avere vinto il Giro d'Italia o il Tour de France, non è stato campione del mondo, non ha vinto la Milano-Sanremo, il record dell'ora, però è passato comunque alla storia perché lui combatteva per arrivare ultimo. Questa è la storia di Luigi Malabrocca. Nome? Malabrocca Luigi. Anche Luisin mi chiamano perché non sono tanto alto. E anche cinese mi chiamano per colpa degli occhi un po' a mandorla. Data di nascita? Sono nato a Tortona, in provincia di Alessandria, il 22 giugno del 1920. Stato civile? Coniugato con la ninfa. Figli? 2. Professione? Ciclista. Siamo in un'epoca completamente diversa, un'epoca in bianco e nero, un'epoca nella quale le grandi imprese venivano documentate magari dalla Domenica del Corriere perché non c'era la TV, oppure semplicemente da qualcuno che diceva un uomo solo al comando della corsa, in radio. Quindi un'epoca in cui l'immagine e la leggenda e l'immaginazione si fondevano in maniera assolutamente epica. Luigi Malabrocca nasce a Tortona, la sua famiglia si trasferisce a Garlasco, in provincia di Pavia, e lui comunque è diplomato, è un perito meccanico, cosa già anomala per un ciclista di quegli anni. Ha una grande passione per la bicicletta, partecipa a delle gare e riesce sempre a stare lì davanti a tutti. Insomma, comincia a pensare che quella del ciclista potrebbe essere la sua strada, che è una strada difficile perché in quei periodi andare in bicicletta, insomma, si guadagna ben poco. Però lui, che tutti chiamano il cinese, è sempre tra i primi. Da dilettante vince 123 corse. È arrivato il momento di fare il salto di qualità, passare professionista, cominciare a guadagnare qualcosa. Però a rovinare i piani ci pensa la guerra. E Luigi Malabrocca ci va in guerra, combatte in Africa dove c'è poco da pedalare, poi viene rimpatriato perché nella sua famiglia sono già morti 2 fratelli e quindi era uso pietoso, insomma, evitare ulteriori decimazioni nelle famiglie. Lui può quindi ricominciare a allenarsi. Nel 1946, nell'immediato dopoguerra nell'Italia che risorge, lui si presenta al mondo del ciclismo, all'occasione per entrare in una squadra, si chiama la Welter. È un professionista, sono gli anni in cui gli italiani stanno cominciando a appassionarsi alla sfida tra 2 grandi campioni, Coppi e Bartali. 1946, l'Italia è un paese ferito, smembrato, che si sta leccando le ferite della guerra. E uno dei pochi modi per recuperare la voglia di vivere è proprio lo sport, il calcio prima di tutto, però anche il ciclismo, che da sempre appassiona milioni di italiani, perché il ciclismo è lo sport che arriva a casa tua, ti passano sotto casa i girini, non devi andare allo stadio, è un modo perfetto per dimenticare la guerra, tornare alla normalità. Quindi parte di nuovo il Giro d'Italia, la mitica corsa che venne inventata da Armando Cugnet, il direttore della Gazzetta dello Sport dei primi del Novecento, la rosa, perché la gazzetta è rosa e la maglia del leader della corsa è rosa. È la gara che attraversa l'Italia, vede migliaia, decine di migliaia di tifosi lungo le strade a attendere il passaggio dei corridori. Come dicevo prima, i commentatori li chiamano i girini. Milano, si inizia il 29esimo Giro d'Italia. Sulla strada di Magenta il sindaco Greppi sta per dare il via. Ecco Bruno Roghi, il simpatico direttore della Rosa. 79 sono gli atleti che prendono il via. L'orologio segna le 11:40, parecchio in ritardo su quanto era stabilito. Colpa di qualche equip che ama dormire. A Sedriano Pasquini scatta, guadagna 200 metri di vantaggio. A Serse Coppi insegue, ma Pasquini non sarà raggiunto che al Ticino, dove i girini traversano in gruppo serrato il ponte provvisorio ancora in legno. Anche il linguaggio dei radiocronisti è ancora antico, post-fascista, riflette un'enfasi che oggi è completamente lontana da quello che sentiamo e vediamo magari attraverso 10 telecamere, l'elicottero che riprende la corsa. E l'ultima volta, prima della guerra, nel 40, il giro l'aveva vinto Fausto Coppi, ma la Brocca non è uno dei migliori, inizialmente non viene neanche iscritto al giro, solo che i corridori non sono abbastanza, ci sono squadre che non hanno un adeguato numero di ciclisti e allora l'organizzazione fa una deroga, crea delle squadre miste in cui raggruppa tutti quelli che non hanno trovato un posto nella loro squadra oppure che la squadra proprio non ce l'hanno, quindi anche il Luisin, ma la Brocca può partecipare al Giro d'Italia del 46. Bologna-Ancona, il percorso che vedrà Bitti vincitore a Cesena e Vini ad Ancona. Siamo a Rimini. Tra le distruzioni della guerra il ponte di Tiberio è rimasto miracolosamente illeso. E nel corso delle tappe, allora come oggi, oltre al traguardo finale ci sono traguardi intermedi con i quali vinci trofei minori. I corridori a quel tempo guadagnano qualcosa che comunque è veramente poco, cifre ridicole, possono però portare a casa premi inaspettati, arrotondare il bottino. Così nei traguardi intermedi gli organizzatori mettono in palio un vestito, un prosciutto, una specie di premio di consolazione per i ciclisti meno fortunati, quelli non di vertice. Ma la Brocca fa due conti e pensa che un vestito, per esempio, fa molto comodo. Però un suo collega, un certo Mario Fazio, proprio sul traguardo inchioda la sua bicicletta, si lascia superare da Malabrocca e si aggiudica il vestito. Perché? Perché il vestito era stato destinato all'ultimo che sarebbe passato davanti al traguardo. Insomma, Malabrocca capisce che nelle prossime occasioni dovrà farsi un po' più furbo, magari usare meglio i freni e usare il cervello, perché è meglio arrivare ultimo che penultimo. Il falco e il gabbiano. Stiamo percorrendo le strade del Giro d'Italia del 46 e di quei giri d'Italia dell'immediato dopoguerra e vi stiamo raccontando il fatto che oltre alla sfida per vincere il giro ci sono ciclisti che non sono Coppi, non sono Bartali e quindi cercano di dare un colpo d'ala differente alla loro gara e si chiamano appunto Malabrocca, che è il protagonista della nostra puntata, ma anche Fazio, Casola, Zanazzi, sono nomi oscuri, sono i nomi di quelli che senza esclusione di colpi stanno cercando di arrivare ultimi a suon di finte forature, deviazioni, finti incidenti, tutto per accumulare ritardo. Eh sì, perché gli organizzatori hanno fiutato l'idea di rendere la sfida per l'ultimo posto altrettanto interessante di quella per la maglia rosa. È un'idea che funziona. Il mio nome era sulla bocca di tutti. La gente mi voleva bene quasi come a Coppi e a Bartali e quando leggevano la gazzetta erano quasi più interessati a vedere l'ultimo in classifica e con quale distacco. Io poi risultavo adattissimo al ruolo del perdente. Ce l'avevo scritto nel cognome, Malabrocca, come un qualunque brocco dell'ippodromo. Così bisognava inventare sempre trucchi diversi, ma la brocca, per esempio, che comunque era uno veloce, scattava, andava in fuga, guadagnava un certo distacco sui suoi inseguitori, poi dietro una curva si nascondeva in un fosso oppure entrava in un fienile, si lasciava superare dal gruppo che credeva di inseguire qualcuno davanti e invece lui era dietro. L'importante era arrivare al traguardo sempre ultimo, ma... E qui c'è il problema, all'interno del tempo limite, perché se no andavi fuori tempo massimo e venivi squalificato. Si stava attento col tempo massimo, normalmente non si faceva la corsa normale che fa un gregario, si serviva come squadra, sia da bere, sia non so se si bucava qualche gomma. E poi quando ci mancava circa un 50 km cominciava la lotta, i primi per il primo posto e noi per l'ultimo posto. Questo era proprio lui, Luigi Malabrocca, e tra gli espedienti studiati per perdere tempo magari c'era quello di entrare dentro un bar, magari farsi offrire da bere, tanto il lavoro sporco del gregario era già stato fatto. Quindi magari c'era addirittura un bicchiere di vino, cose impensabili oggi, magari venivano invitati a casa a salutare la famiglia di un tifoso, passavano i minuti, a volte le ore, e sembra di parlare di cose senza senso, ma se pensiamo a quando avvengono questi fatti ci accorgiamo che stiamo parlando di un'altra Italia, un'Italia che ha sofferto la fame, che ha visto uccidere persone, che ha sentito cadere le bombe sulla sua testa, quindi c'è un ritorno alla normalità, la possibilità di vedere passare di nuovo il Giro d'Italia con la carovana era un modo per esorcizzare gli orrori della guerra e anche per dimenticarli il più in fretta possibile. 7 luglio 1946, all'Arena di Milano si conclude il Giro d'Italia e Malabrocca si classifica 40esimo, cioè ultimo. A attenderlo c'è una maglia. È come la maglia rosa del vincitore, però è nera. Questa maglia viene creata dagli organizzatori in onore di Giuseppe Ticozzelli, che nasce come calciatore, che si era iscritto nel 26 al Giro d'Italia, si era ritirato dopo 3 tappe per essere stato investito da una moto e lui indossava la sua maglia da calcio, che era quella del Casale, la mitica squadra che vinse anche uno scudetto, che aveva una maglia nera con la stella bianca. Quindi 20 anni dopo Malabrocca conquista con questa maglia una grande popolarità, diventa il beniamino di quei tifosi che vedono in lui il riscatto di chi non ce la fa, di chi prova ma è troppo debole per essere al pari dei più grandi. È un po' come la nostra sfortunata Italia del dopoguerra. Così arrivano anche gli ingaggi per le riunioni post-giro. Lì Malabrocca viene invitato, ma non per arrivare ultimo, perché lì è una corsa secca, ben diversa da una gara a tappe. Addirittura lui riesce anche a vincere qualcosa, come la Parigi-Nantes nel 47, la Coppa Agostoni del 48. Coppi diceva di Malabrocca che finché si rimaneva sotto i 30 km di velocità lui era imbattibile, perché aveva una grande resistenza. Anche il nostro obiettivo aspetta in via di questo 30esimo Giro d'Italia. Girerà la pellicola, gireranno i pedali degli 84 campioni. Edriano, l'auto di Cugnet, direttore della corsa, gareggia con la nostra Jeep. Aria d'Allegro Turismo, baci alle ragazze. Il video dura fino a Magenta. A Vercelli ecco già solitari i 4 cavalieri dell'Apocalisse, Cini, Bonte di Acqua e Lambertini. È passato un anno, ma sono già cambiate molte cose. Il Giro d'Italia riparte, questa volta i corridori sono 84, forse i più scarsi rimangono a casa, ma non Luigino Malabrocca, anzi Luisin Malabrocca, che viene anzi pregato dalla sua squadra, la Welter, di partecipare, perché il cinese, come lo chiamavano tutti, diventa l'idolo della folla. Tutti si aspettano nuovi exploit per arrivare ultimo e conquistare la maglia nera, che ormai gli organizzatori hanno ufficializzato. All'ultima tappa arrivano in 50 e Luigi Malabrocca è 50esimo. La maglia è sua e non solo quella, perché con i premi vinti riesce a racimolare un gruzzolo superiore, per esempio, a quello di Giulio Bresci, che è un suo compagno di squadra che è arrivato terzo alle spalle di Coppi e Bartali. Però all'orizzonte appaiono altri ciclisti, non i campioni, quelli che vogliono strappare questo strano primato a Malabrocca. E lui deve cominciare a stare più attento, perché tra i gregari ce n'è uno che sta diventando sempre più minaccioso. Il suo rivale per l'ultimo posto, il suo nome è Sante Carollo. I Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando una storia anomala, una di quelle storie che piacciono molto qui al Falco e il Gabbiano, che piacciono molto a noi, agli autori, perché è una storia parallela, è la storia di un campione di ciclismo che si chiama Luigi Malabrocca, però è un campione che corre per un'altra maglia, cioè la maglia nera, quella riservata al concorrente che arriva ultimo al Giro d'Italia. Lo facciamo anche grazie a Riccardo di Senigallia, che acutamente ci ha segnalato questa storia interessante. E poi lo facciamo perché ci piace dare dignità a quelli che partecipano. Poi nel caso di Malabrocca passano quasi tutta la gara a portare borracce, aiutare il proprio capitano e poi alla fine si dedicano a altro, cioè arrivare ultimo. Lo chiamano il Luisin lui, oppure il cinese perché ha gli occhi un po' a mandorla, lo abbiamo lasciato alla fine del Giro d'Italia del 47 e per il secondo anno consecutivo ha conquistato la maglia nera, quindi premi, denaro, o salami, formaggi, vestiti, una volta gli arrivò perfino un agnello vivo, sono i regali della gente, sono i regali di quelli che prendono in simpatia questo eroe dei perdenti che riesce a fare parlare di sé senza essere un grande campione. Ultima tappa, finale in minore, malinconica scampagnata. I girini non corrono sulla strada, ma sulla polemica. Bocca amara per l'abbandono di Coppi. Lo si vedrà al Vigorelli, dove Magni, l'eterno secondo, vorrà essere primo nell'ultima volata e ha vinto in giro. Tenerezze coniugali contro le asprezze del pubblico. Certi cuscini sulla pista simboleggiano questo giro addormentato. Insomma, il giro del 48 è un giro un po' addormentato, ci sono polemiche, rivendicazioni, Coppi si ritira, finalmente Magni vince meritatamente rompendo il binomio Coppi-Bartali. Perfino Malabrocca non partecipa perché la sua squadra, che è andato alla Edelweiss, che era una marca di sigarette mitiche negli anni 50, non si iscrive e passa inosservata anche la lotta per la maglia nera. Nel 49 si torna a gareggiare e questa volta si torna anche a fare sul serio. Intanto lui ha un caposquadra che è lo svizzero Fritz Scheier, per cui intanto deve lavorare per lui. Però nelle retrovie si sta affermando un altro ciclista, il suo rivale vero, è uno che si chiama Sante Carollo, sta difendendo con successo la maglia nera. Lui non doveva neanche esserci a questo giro, è stato chiamato in sostituzione di un altro ciclista, è visibilmente fuori forma, ma la Brocca lo tiene d'occhio perché non vuole deludere il suo pubblico, però le regole di squadra gli impongono di non guardare quella parte della classifica, bisogna stare davanti quasi fino alla fine e in fondo lo stipendio è buono e lui non può lamentarsi. La tappa dei cinque colli alpini era ancora più aspettata che quella delle Dolomiti. Il colle della Maddalena non è che un assaggio. Marcata la frontiera francese, Volpi ha tentato di tagliare la corda, ma il taglio vero lo dà Coppi, che si era risparmiato per combinare oggi il capolavoro della sua carriera. Amico dei monti, alpinista su due ruote, fa il sesto grado con l'agile sicurezza di un grande crodatore. Così davanti il pubblico si divide tra Coppi e Bartali, e poi ci sono anche Magni, Couture, però dietro ci sono i carolleani e i malabrocchiani a tifare per chi deve aggiudicarsi l'ultimo posto. Però Malabrocca non è in forma, cioè non va abbastanza piano, in realtà è in forma, e quindi il pubblico è deluso. A metà del giro Malabrocca finalmente viene liberato dai suoi doveri di gregario e quindi può iniziare a perdere minuti su minuti e a sfidare veramente Carollo per cercare di arrivare ultimo, e ricominciano quelle meravigliose sceneggiate che tanto piacciono alla gente, fatte di finte forature, incidenti, deviazioni, bicchieri di vino al bar. Il pubblico torna a interessarsi all'insolita sfida per chi dei due sarà il peggiore. In quegli anni i giri non vengono giocati sul filo dei secondi come oggi. Chi vince magari è capace di vincere una tappa con 7 minuti di vantaggio, con 12 minuti, e poi perdere 10 minuti la tappa dopo, e questo ovviamente succede amplificato anche nelle retrovie. E quindi arriva un punto in cui Malabrocca ha 2 ore di vantaggio e quindi di svantaggio sull'ultimo, che è Sante Carollo. Sembra un'impresa impossibile recuperare, cioè perdere, per assicurarsi l'ultimo posto della classifica. Non bastano le forature e non basta nascondersi magari sotto a un ponte. Nella tappa di Genova, la tappa da Montecatini a Genova, c'era solo 25.000 lire a Genova. Allora io mi sono nascosto sotto un ponte. A Sesto mi sono nascosto sotto un ponte, ho visto passare il Carollo e poi sono andato là io. Lei che proprio lì vicino al traguardo era lui fermo che aspettava lo scadere, in ogni modo ho fatto tempo a passare lui, io sono andato ultimo con la tappa. I due ciclisti cominciano a curarsi come i grandi campioni, se uno si ferma l'altro, uno magari scatta e va in fuga e si nasconde dietro un bar. Ricordiamo che Malabrocca deve inventarsi qualcosa in più per recuperare le 2 ore di distacco, un colpo d'ala, e all'ultima tappa Malabrocca va in fuga, scompare alla vista di Carollo, gira in un cortile, scende dalla bici, trova ospitalità in una famiglia che lo invita a bere qualcosa, poi gli offrono il pranzo, parlano di un'altra grande passione di Malabrocca, che è la pesca. Dopo 2 ore e mezza di pranzo, Malabrocca risale sulla bici e si avvia verso l'autodromo di Monza, dove è previsto il traguardo. È sicuro di aver perso abbastanza tempo da strappare la maglia nera a Carollo, però non ha fatto i conti con i cronometristi ufficiali che, stanchi dei sotterfugi studiati dai due, dopo 2 ore decidono di chiudere la gara, dando a Malabrocca lo stesso tempo del penultimo arrivato, e così Carollo vince la maglia nera. Rulicano i girini sulla pista di Monza. Il 32esimo giro si conclude con un accordo finale. La nota acuta tocca a Corrieri, primo arrivato. Eccolo accanto al suo caposquadra Bartali. Questi applausi è chiaro a chi vanno. Accanto alla maglia rosa, la maglia nera, l'intrepido Carollo, ultimo anche oggi, che però si becca bigliettoni come se piovesse. E anche il resto, beato lui. E il resto, io che sto vedendo il filmato ve lo posso raccontare, sono salami, prosciutti e formaggi. Così Malabrocca nel 32esimo giro d'Italia arriva 64esimo su 65 classificati. È l'ultima volta che lui cerca di vincere il titolo della maglia nera, e poi si dedica al ciclocross e riesce a imporsi, perché diventa uno degli atleti di punta, diventa campione italiano nel 51 e nel 53. Oggi tra i migliori specialisti italiani e svizzeri si sono messi in luce gli immancabili Malabrocca e Gatto, nonché l'elvetico Hans Bieri. La corsa è stata molto animata, prima per l'intraprendenza di Bieri e di Fantini, poi per il magnifico recupero di Malabrocca che, dopo un avvio lento, è venuto a farsi luce nell'ultimo giro. Così sul costone precedente il rettilineo d'arrivo vediamo sfilare nell'ordine Malabrocca, Gatto e Bieri, che hanno inesorabilmente staccato tutti gli avversari e si accingono a disputare la volata. Da due ali di folla che lascia appena un varco ai corridori, il campione italiano si impone nettamente a Gatto. Speriamo che queste vittorie di Malabrocca siano di buon auspicio per i prossimi mondiali. Nel 56 per Malabrocca arriva il ritiro dal mondo delle corse, e qualche anno dopo la Rai lo intervista e gli consegna una maglia rosa onoraria, e lo vanno a trovare a casa sua a Garlasco, dove ha trasformato l'altra sua passione, che è la pesca, in un lavoro. Malabrocca, è andata bene la pesca? Abbastanza, è tutta roba fine, e noi prendiamo 1.000 lire al chilo di questa roba. Se ne prende circa un 100 quintale l'anno la nostra cooperativa riesce a prendere. È una cosa tutta abbastanza una roba economica per tutta la nostra zona. Malabrocca, qui abbiamo un regalo per lei. È una maglia rosa, gliela manda Torriani. Servirà a ricordarle i bei tempi del giro e a tenerle un po' di caldo d'inverno. Io ringrazio particolarmente la Rai e Torriani che mi ha mandato questo ricordo, vuol dire che io non ne ho mai viste, mai indossate. Però ho indossato qualche volta la maglia gialla, l'ho indossata, ma non la maglia gialla del Giro di Francia. Ho vinto il Giro di Jugoslavia, ho vinto anche diverse cose, insomma. Certamente nel Giro d'Italia ho cominciato a fare l'ultimo e ho sempre fatto l'ultimo. L'ultima volta che il Giro d'Italia consegna la maglia nera in via ufficiale all'ultimo classificato è nel 52, quando questo titolo viene conquistato da Giovanni Pinarello, che poi fonderà una fabbrica di biciclette a Treviso e avrà molto successo. Della stessa zona, precisamente di Motta di Livenza, è Marco Colledan, che è un ciclista classe 1988 che all'ultimo Giro d'Italia si è distinto per un'impresa particolare. E Marco Colledan è collegato con noi. Buongiorno Marco. Salve, salve a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora Marco, l'anno scorso ti sei distinto, diciamo così, per un'impresa particolare. Qual è questa impresa? Diccelo. Ah, niente di che, sono arrivato ultimo al Giro d'Italia, diciamo. Beh, hai eguagliato Malabrocca, insomma, però sono anni diversi e giri diversi. Ma come ti sei sentito però? Vabbè, ero orgoglioso perché finirlo non è da tutti, prima di tutto per parte sempre in 200 e si è arrivati quest'anno in 168, mi sembra, quindi tanti ne hanno lasciato perdere. Io sono sfortunato la prima settimana, ho avuto il primo giorno, poi ho avuto anche un po' di febbre e mi sono portato un po' di influenza, diciamo non è stato facile. Ma arrivare ultimi, cioè, non è che si vince qualcosa, cioè è rimasta una tradizione, com'è? No, io non ho vinto nulla sinceramente, anzi ho preso 500 euro di multa. La multa, come mai? Sì, quel giorno là della penultima tappa mi ha multato, che ho atteso tutti. Ma l'hai fatto perché seguivi la tradizione o proprio perché insomma eri un po' provato dal giro? No, cioè sinceramente io lo sentivo di più perché ok, ero ultimo già una settimana e era così l'ultima tappa e diciamo essendo nato a Treviso, essendo di Treviso la sento di più forse degli altri, quella scusa di Giovanni Pinarello e della famosa maglia nera sua, però non è che sentita o cosa, diciamo ero orgoglioso di essere trevigiano e ultimo. Vabbè, no, ti capisco, quindi in qualche modo tu sei felice di aver raggiunto questo obiettivo. Sì, felice, per me era importante averlo finito e basta. Dopo l'anno scorso non ho avuto un anno molto fortunato con la squadra. Grazie Marco, grazie, a presto. Grazie mille, grazie. Luigi Malabrocca se n'è andato in silenzio nel settembre del 2006, una vita da grande sconosciuto, che ha avuto invece i suoi grandi momenti, perché per 3 edizioni del Giro d'Italia lui ha scritto un pezzo di storia del ciclismo italiano e tutti hanno parlato di lui, anche se ha scritto la storia di quelli che perdono ma diventano eroi per la gente comune, quindi comunque un colpo d'ala anche se molto particolare. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalate via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete una storia che secondo voi merita di essere raccontata, oppure seguitemi, insomma c'è il sito di Radio 24, ci sono i miei social, i social del Falco il Gabbiano, insomma se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.